boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Ecco, allora siamo qui, venerdì. È quasi finito. Tranquilli, prima facciamo passare questi 10 minuti e poi è finita. Prima di cominciare c'è già aria di weekend. Ma Drago! Cosa c'è? Cos'è quella? Cos'è? Ma è una mamma col burka, Kappa. Cosa credevi? Non so, mi sono spaventato. Signora, guarda che roba, sembra Belfagor. Ho capito, sei 2 metri e ti spaventi per una donna nera. Spavento, una sensibilità. Un burka, loro piace così, dai, amen. Cosa amen? Già amen non va bene. No, e poi non sono mica l'unico che si spaventa per il burka, no. In un asilo di Sonnino vicino a Latina è successo. Sonnino vicino a Latina, il paese natale di Alessandro Altobelli, detto Spilo, il glorioso centravanti dell'Inter degli anni 70-80. Vedi, non parlare di Altobelli. Stiamo parlando dell'asilo di Sonnino, vicino a Latina, dove c'erano dei bambini che si mettevano a piangere tutte le mattine perché c'era una mamma che portava i suoi bambini col burka all'asilo, col burka nero. Sembrava Belfagor. Che Belfagor. Sembrava Darth Vader. Sì, ma bisogna pensare che sotto il burka questa donna è una donna normalissima, una mamma sorridente. Ma che ne sai, non l'hai mica vista. Ma sarà così. Comunque, perché vista così, sembra Belfagor, o meglio Darth Fener. Ma smettila di dire queste Darth cose. Darth Vader. Oppure Dark Father o anche Dark Water, quello di Guerre Stellari, Drago, quello che parla. Ma non puoi dire queste Pensa cose. Pensa a te, Dark Father che si mette lì e culla un bambino. Dormi, dormi, bel bambino, che la mamma è qui vicino. Chiudi gli occhi, piccolino. Dormi, sogna, fai la nanna, qui sul cuore della mamma. I'm going to bed. Ricreazione. Ecco, guarda un po', Kappa. Osserva bene sti bambini che stanno giocando. E vedi che sono tutti vestiti all'ultima moda. Non mi sembra. Guarda attentamente, guarda, ce n'è uno che è il grembiulino almeno di 2 taglie più piccolo e le scarpe tutte consumate. Ma il bambino Albertazzi! Alberto, basta con queste storpiature, Vabbè, dai, Albertazzi è un bellissimo soprannome. Sì, È pieno di storia. Senti cosa diceva il bambino Carmelo Bene. E distinguiamo anche la squallida prosa degli Albertazzi. Io avevo un cane lupo, mi ricordo. Anzi, ne ho avuti 2. E siccome per i lupi che amo molto, non ho mai adottato dei nomi. L'ottavo cognome, tutte e due si chiamavano Albertazzi. Ma come si permette? Vabbè. E chi sarebbe questo bambino Carmelo? Vabbè, uno importante. Non lo conosco neanche? Per forza, è morto adesso. Vabbè, però Albertazzi a parte, noi eravamo molto incuriositi dal tuo grembiulino, Albertino, perché ce l'hai così stretto. Ma sei cresciuto tutto d'un colpo, non ce l'avamo mai accorto. Magari. Questo è il grembiulino di mio fratello. Lui è più grande di me adesso, no? Però quando faceva l'asilo era molto più magro di me. Ho capito. E perché lo porti tu adesso? Non dipende mica da me, sono i miei che mi obbligano a metterlo, io mi vergogno questo grembiolino. Tutti hanno il grembiolino fatto su misura dal sarto. Vabbè, adesso. Io invece quello del mercato di mio fratello. Vabbè, e invece le scarpe? Anche. Ah. Io è tutto di mio fratello, io di mio non ho niente. Vabbè, diciamo che sei in controtendenza, Io ho tutte le cose che mio fratello non usa più. Ma sai che non si usa più questa roba qui? Sta scomparendo, un'usanza ormai alla fine. Ormai si compra tutto l'arredo da capo, consumismo spinto, tutto nuovo. Ah sì? Sì. Allora andatelo a dire a quei comunisti dei miei genitori. Vabbè, dai, Bertolino, cosa c'entra il comunismo adesso? Alberto, che Bertolino. Bertolino. Comunque, non saranno comunisti i miei genitori. Però ci tengono a risparmiare energia. Bene. A non sprecare niente, a riciclare. Bene, giusto. E alla fine sono tutte cose da comunisti. Ma non è vero. E poi hanno pure la mania dei baratti online. Ah, bellissimo. Cosa? L'economia del baratto sta andando fortissimo. Ma come sarebbe il baratto? Il baratto. Ma certo, ma ci sono molte persone che da anni non usano più il denaro. Ma cosa dici? Drago, ci sono dei siti dove, che ne so, puoi dire: ho un cellulare di 2 anni ancora funzionante e lo scambio, che ne so, con un avvitatore elettrico. Tac! Senza scambio di soldi, fantastico! In effetti, tanti miei giocattoli sono finiti nei baratti dei miei genitori. Ma come? Ma povero bambino! Per esempio, i miei genitori hanno barattato la mia macchinina pedali con l'opera completa di qualche filosofo tedesco, che adesso non mi ricordo neanche chi fosse. Solo che io non è che poi posso giocare con le opere del filosofo tedesco. Non so, magari Leibniz. Vabbè, no, volevo dire, i tuoi genitori sono da ammirare, insomma, Alberto, dai. Tutti dovrebbero comportarsi così. E infatti, guardati intorno. anche i bambini rumeni sono vestiti meglio di me. Vabbè, dai, Albertuccio, smettilo di fare razzista, rumeni, italiani, cosa c'entra? Ma gli no, altri, cosa c'entra il razzismo? È che mi vergogno. Ma non devi, presto tutti faranno come i tuoi genitori, Albertuccio. Appena qualche bambino alla moda lancerà l'idea che risparmiare è chic, vedrai che anche tu diventi cool all'istante. No, è cool, dice il tuo amico Drago, non a me. Ma guarda che non è un insulto, è Albert Einstein. Vabbè, Albert Einstein mi piace. Vedi? E quello è un bel soprannome. È un po' lungo, sì. Forse, meglio Albert. Albert. No, Albert no, Albert Einstein. Tito, vabbè, dai, Einstein, d'accordo, torniamo subito al tema. È giusto dare i vestiti dei fratelli ai figli minori? Sì. È giusto ripudiare l'uso del denaro? Io forse ritengo di sì. Io anche. Noi riteniamo di sì. Io ritengo di no. Prendete lo zainetto. Mio fratello ha uno zainetto di 4 anni fa, no? Io 4 anni fa non ero neanche nato. E per me quella lì è preistoria, È come voi dinosauri. Vabbè, cosa? Però puoi sempre barattarlo, no? Albertuccio, imita i tuoi genitori, giusto, no? Prendi giusto. Esempio da loro. Barattalo con qualcos'altro, che ne so, una scatola di colori, un gioco di società, Monopoli. Sì, ma poi dove la metto la roba? Va bene. È uno zaino, no? Al massimo posso provare a barattarlo con uno zaino più nuovo. Sì, ci provi, ma non ci riesci, scusa, non ci sta nessuno. E beh, bisogna essere convincenti. Vabbè, puoi dire che è uno zainetto vintage, magari qualcuno interessa, adesso si usa, no? Vintage. No, dico, bisogna essere convincenti, nel senso che ci sono solo due modi per esserlo. Convincenti. Certo. O aggiungere qualche soldo e fare un baratto più soldi, no? Come le calciomercato. No, come più soldi? Non vale, il baratto è baratto, niente soldi, come più soldi? Vabbè, allora rimane solo il secondo modo. Cioè? Che sarebbe di farmi prestare lo zaino nuovo da un bambino un po' ritardato, no? Ecco, ci siamo. E scambiarlo con un altro. E poi rifilare il mio vecchio zaino al bambino ritardato che mi ha prestato il suo. Vabbè, ma tu arrivi lì e come lo giustifichi, scusa? Arrivi col tuo vecchio zaino e cosa gli dici? Beh, gli dico che quello è il suo zaino. Ma come? Ma non è vero. Vabbè, non è vero. Io però gli dico, questo qui è il tuo zaino. Cosa vuoi da me? Me l'hai prestato? Ti ho ringraziato? E adesso te lo restituisco, no? Boh. Lui non capisce niente. Neanch'io. E torna a casa con lo zaino di 4 anni fa. E questa qui è una bella idea, No, non è bella, non ci siamo. Questa è la tua solita truffa ai danni dei bambini più indifesi, caro bambino Alberto di Monaco. No, Alberto di Monaco no, Ma perché? Un principe, no? Allora facciamo un baratto. Facciamo un baratto di nomi. Io vi do Alberto di Monaco. E voi mi date Albert Einstein. No, vabbè, dai, per Alberto di Monaco al massimo posso darti Alberto del Grande Fratello. Ma chi è? Alberto del Grande Fratello 9. Quello che ha fatto sesso con Vanessa. E allora ci sto. Ci vuole qualcosa per tenerli impegnati. Chiedo asilo. Oh, finita la ricreazione, ma si spalanca davanti a noi il weekend. Drago, è venerdì, finito. Pensa, niente compiti, non vacanza. Fretta, non è ancora finita. Non è ancora finita, perché come tutti i venerdì dovresti saperlo. Dobbiamo fare... il richiamino di Kid Factor. Con tutta sta enfasi, la sigla e tutto. Dai, vabbè, passiamo la sigla. Allora, ricordiamo velocemente ai nostri ascoltatori quello che devono fare. Beh, innanzitutto, che cos'è Kid Factor? Kid Factor, il nostro talent show che va in onda tutti i martedì, che ha come guest star il giudice Morgan. E questa settimana, infatti, i nostri due protagonisti, i due cantanti, Dini e Seba. Seba, possiamo anche tralasciarlo, perché l'importante è Dini. Non devi fare Dini. Il tifo. Vabbè, insomma, questa settimana il mio cantante Dini ha proposto una splendida versione del pezzo dei Queen, famosissimo, Somebody to Love. Somebody to love me. Però va ma bene. Smettila. Invece il mio artista, e cioè Seba, da Albarè in provincia di Verona, il punk, il vero punk energico, vabbè, ha presentato pezzo. Una sua canzone, sì, sua canzone originale, che si chiama Guten Appetit. Guten Appetit. Eccolo. Vabbè. Se sti urli tipo i Sex disumani, Pistols, ma grandissimo. Vabbè, comunque i compiti di questo weekend non ci sono, tranne quello di votare per Dini, mi raccomando, o votare per Seba, mi raccomando, soprattutto per Dini, o scrivendo anche per Seba. Chiedo asilo @radio24.it. Vota Seba. Vota Dini. Vota Seba. Vota Dini. Vota Seba. Vota Dini. Vota Seba. Un programma di Gabbè e Drago. torniamo lunedì e mandate i vostri compiti del weekend a chiedoasilo@radio24.it.